l'immenso è lei che vuole me. L'immenso è lei che sa nascondermi e che non ha voluto mai portarmi via, che sa delle mie lacrime, che può vedermi piangere e quel che resta è inutile. Pezzi di colori che non ho, per me darei amore, amore, amore, amore, se non che lui. Se non ho l'immenso, l'immenso, l'immenso, l'immenso è lei che vuole me. L'immenso è lei e sa nascondermi e che non ha voluto mai portarmi via, che sa delle mie lacrime e può vedermi piangere. L'immenso, l'immenso.